Test A2. Revisione capitoli 1-7. Ascoltare. Prova 1. Ascolterete dei brevi dialoghi. Ascolta attentamente e svolgi l'attività indicata. 1. Perché sei arrivato tardi? Perché ho perso il treno. 2. Perché parti prima e non ti fermi fino a domani? Scusa, ora ho fretta. Ti spiego tutto domani. Non ti preoccupare. 3. Perché non sei venuto alla festa? Avevo la febbre alta e non sono uscito. 4. Come mai loro non vengono più a lezione? Hanno cambiato corso, questo livello è troppo alto per loro. 5. Come mai c'è questa macchia alla parete? Non lo so, quando sono arrivato ho trovato tutto così. 6. Ma come? Hai già finito tutti i pistacchi? Lo sai, mi piacciono da morire. 7. Per quale ragione hai cancellato la prenotazione? Perché sabato pioverà e non ho voglia di andare al mare con il brutto tempo. 8. Sai che qui non si può parcheggiare. È proprietà privata. Scusa, è un'emergenza. Ora non posso spiegare. 9. Mi sembra che il direttore sia scontento del nostro lavoro. Anche secondo me, ma non so perché. 10. Perché la porta non si apre bene? Forse la chiave non funziona bene? Non so, io prima sono entrata senza difficoltà.